Mix 24. Storie di star. È un giorno triste, di shock, di dolore, non solo per il mondo della musica. Colpito da un infarto nel suo ritiro di Maiano, in Toscana, Pino Daniele è morto stanotte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le sue canzoni resteranno nella storia della musica leggera italiana. È morto improvvisamente la notte scorsa Pino Daniele. La città di Napoli è in lutto. Il lutto per la morte di Pino Daniele, uno dei più grandi interpreti di Napoli, della storia di Napoli, della sua arte, della sua musica. È morto Pino Daniele. Come è morto Pino Daniele? Ma che stai dicendo, è morto Pino Daniele? Siamo rimasti tutti sotto shock, tutta Napoli. Come se fosse morta una persona di famiglia. Un dispiacere molto grande che se n'è andato. Ci è dispiaciuto molto stamattina svegliarci e avere questa notizia. Quando ti affezioni ad una persona, quando trovi un mito, non ti aspetti che possa morire. Oggi se n'è andato un pezzo di Napoli. Se n'è andato relativamente, perché poi continua a vivere con la sua opera. Per noi è finito il mondo. Napoli da oggi non è più un mille culuro. Ma che succede, sto piangendo, pensando a te. E cammino in mezzo a via, parlando di libertà, parlando di libertà. Il 4 gennaio del 2015 un infarto stronca Pino Daniele sul sedile della sua automobile. Avrebbe compiuto 60 anni pochi mesi dopo. A cedere il suo cuore, un cuore malato fin dalla giovinezza, Pino Daniele si è sentito male nella sua casa, nella campagna di Magliano in Toscana. La sua compagna Amanda Bonini chiama un'ambulanza che viene rimandata indietro, poi il disperato viaggio in autostrada verso Roma. Quando Pino Daniele arriva all'ospedale Sant'Eugenio non c'è più nulla da fare. Una morte inaspettata, solo pochi mesi prima, in estate, Pino, con una ritrovata energia e gli amici di sempre, riporta in tour l'album della gioventù, Nero a metà. Il concerto all'Arena di Verona si trasforma in un evento straordinario. È stato un momento molto tragico, anche perché due giorni prima ci eravamo sentiti per telefono. Lui mi ha detto una cosa: sai Tony, ti voglio bene, e mi ha intimidito. E io ho detto: anche io Pino ti voglio molto bene. Noi ci eravamo lasciati pochi giorni prima e io ero a Salerno perché avevo fatto un concerto. Il signore dice: possiamo fare una foto con mio figlio? Facciamo la foto. Ha saputo di Pino. Ma come? È morto Pino Daniele. E stavo cadendo per terra. La pressione è andata a zero. Le ho detto: fate quello che volete, ma io domani devo andare. Io dovevo vederlo. Però dobbiamo andare avanti. Io sono sempre con lui, lo sento molto vicino e ci sentiamo molte volte di notte. Non si può spiegare, qualcosa è, perché quando succede questa cosa con una persona cara, cadono tutti così i parametri del quotidiano, tra virgolette, reale, del nostro ipotetico reale. È stato un tuffo enorme, non si può spiegare. L'ho sentito il primo gennaio. Lui mi ha chiamato: se non ci sentiamo è proprio una figuraccia se non ci sentiamo il primo giorno dell'anno per darci gli auguri. E poi ci dovevamo vedere due giorni dopo perché buttavamo le basi per fare un tour mondiale su un linguaggio che lui stava facendo sul flamenco legato al jazz. E che cosa ho provato? È venuta mia moglie e ha detto: mi ha dato questa notizia alle 7 del mattino così. Ho chiamato James, ho detto: ma che siamo messi in macchina e siamo andati. Ma in macchina non parlavamo niente, io sono rimasto. Sai quando tu hai un blackout, c'è una sensazione di una cosa come se ti viene a mancare il respiro, l'aria. Ma ancora adesso lui non c'è, ma io comunque questa storia non l'ho ancora proprio materializzata, non sono convinto. Io per me c'è sempre. Erano Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Gioam Ruso e Rino Zurzolo. Verona diventa per tutti loro un'operazione nostalgia. E con la città scaligera d'altra parte, Pino Daniele ha un rapporto particolare. È qui che nell'84 Maradona gioca la sua prima partita con la maglia numero 10 del Napoli, ed è sempre qui che nel 78 il Festival Bar lo porta all'attenzione del grande pubblico. Pino Daniele canta in dialetto, ma le sue canzoni sono destinate ad andare ben oltre i confini della sua città. Ma chi era allora Pino Daniele? Pino Daniele è il primo di sei figli di un lavoratore portuale. Nasce in un basso, in un vicolo a ridosso del monastero di Santa Chiara. Profondamente appassionato alla musica, fin da piccolo impara a suonare la chitarra da autodidatta. La sua famiglia vive in precarie condizioni economiche e Pino viene cresciuto da due zie. Si sposta a pochi metri, in un bel appartamento al terzo piano di un antico palazzo. Studia prima da ragioniere e poi si iscrive all'università orientale, ma presto capisce che la sua vera vocazione è un'altra. Me ma piaccio blues e tutte le giorni a Giaganda, perché sono stata zitta ma un momento è mai sfuga. Sono volgare so che nella vita suonerò, chi te ne complessa non ne può. Pino Daniele esordisce in un complesso fondato con un compagno di classe. Poi l'incontro con Rosario Germano, Rino Zurzolo, Enzo Avitabile ed Enzo Cervo. A quest'ultimo appartiene lo spazio in Vico Fontanelle, alla Sanità, dove il gruppo effettuava le prove. Nel 1975 Pino Daniele inizia l'attività di session man. Appare per la prima volta come chitarrista nell'album Suspiro di Gianni Sorrenti. Partecipa alla registrazione dell'album Le Due Facce di Gianni Nazzaro e accompagna in tour Bobby Solo. A metà degli anni 70 Pino Daniele era un perfetto sconosciuto, si era appena avvicinato professionalmente al mondo della musica ed era il chitarrista di Bobby Solo. Veniva da Napoli a Roma, dove Bobby Solo abitava, gli davano i soldi della trasferta e lui, per risparmiare i soldi dell'albergo, della piccola pensioncina vicino alla stazione Termine, veniva a dormire a casa mia. Ricordo che poi andai a Napoli perché Peppino Di Capri aveva appena aperto il suo nuovo studio di registrazione che si chiamava Lo Splash a Fuori Grotta e stavo producendo un disco di un cantautore della RCA. Ecco, avevo invitato tutti i napoletani che conoscevo all'epoca, con i quali lavoravo. C'erano gli Osanna, c'era Tony Esposito, c'era Alan Sorrenti, Edoardo Bennato, insomma, che più ne ha più ne mette. C'era anche Pino Daniele, che in quell'occasione mi fece sentire dei provini che aveva fatto. Io presi questi provini, mi piacevano molto, erano cantati chiaramente in napoletano, ed ebbi l'occasione di farli sentire a un discografico, il quale li ascoltò e dopo 5 secondi disse: ma Schipani, sono cantati in napoletano, ma dove li vendiamo noi dischi? A Forcella. È Franco Schipani, giornalista ed autore. Nel 1976 Pino Daniele non ha ancora inciso il suo primo disco, ma le radio private già lo invitano a far sentire le sue canzoni. Facciamo ascoltare un pezzo di Pino dal vivo che si chiama Libertà e poi ascoltiamo lo stesso pezzo registrato. Ecco, così vediamo, disco. Vediamo anche sì. La differenza. Va bene, allora questo pezzo dice, vorrei prima spiegare il testo però perché sì. È un po' difficile a capirlo. Dice: chiovo in coppa a sti palazzi scuro, in coppa in muro frascia della casa mia. Ecco, adesso invece che l'hai spiegato abbiamo capito, ecco, perfettamente. No, piove, no, vorrei prima dire il napoletano e poi l'italiano. Piove su questi palazzi scuri, su mura vecchie, mura marce di casa mia. Tutto attorno all'aria d'oro infuso, tutto intorno all'aria è bagnata. Chi son io che cammino in mezza via parlando di libertà? Chi sono io che cammino per strada parlando da solo di libertà? Star un men senza tempo, dorme senza tempo, non ricordo che non pensi più, non ricordo che ormai è passato, ma che succede ristucchi a niente, ma che succede, io piango, pensando al tempo che se ne va, pensando al tempo che va via, e cammino in mia via, cammino per strada parlando di libertà, parlando di libertà. Io vengo a sti palazzi scuri, goppe in mura frasce della casa mia, tutta attorno all'aria d'ori infuse, chi son chi, chi son chi, che cammino in mezza via, parlane lì. E nella Napoli degli anni 70, ricca di fermenti musicali, Pino Daniele incontra Jem Senese, figlio di una ragazza napoletana e di un soldato americano di colore. Star un meno senza tempo, ricordo che non penso più, ma che succede sto chiagnena, pensando tempo che se ne va, e cammino in mezza via, parlane lì. Parlane libertà, na, na, na, na, na. Mix 24, storie di star. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia e la musica di Pino Daniele. Nella Napoli degli anni 70, Pino Daniele incontra Jem Senese. James è un nero napoletano che con il suo sassofono interpreta come nessuno le nuove tendenze metropolitane. Fino a quel momento la canzone napoletana è quasi uno stereotipo: cuore, amore, sogno e dolore, pizza e Vesuvio. Ma con loro nasce un nuovo linguaggio, un nuovo modo di raccontare Napoli, una musica che denuncia, evidenzia il male della città. A raccontarlo il maestro Roberto De Simone, semiologo Franco Linguiti e il giornalista produttore Renato Marelli. Risultavano i cascami di questo mondo diventato oramai abbastanza anche fasullo dal punto di vista espressivo, e si sentiva il bisogno di nuove esperienze. Chi non è napoletano non sa o non ricorda che negli anni 70 in realtà vi era anche tutta una cultura napoletana che non faceva altro che continuare a mantenere in piedi la grande tronfia retorica imperante di Napoli come città dell'amore, i buoni sentimenti, il mandolino, tanto basta che c'è sto sole e poi che sono fonte. Una tazzulella di caffè di Pino Daniele è la risposta dura a Ah, che bello caffè di Nino Taranto, che era il caffè rassicurante. A Napoli succede tutto, vabbè, ma noi tiriamo a campare, ci beviamo il caffè. Il contrario, Pino Daniele denuncia che la tazzulella di caffè dovrebbe sanare i mali, ma non lo fa. È una musica che non esorcizzava i mali della città, ma che invece li metteva in evidenza. Una Napoli della disoccupazione, una Napoli delle strade che si sfasciano, una Napoli dei bassi che c'erano all'epoca, una Napoli di sfruttamento sociale, una Napoli di narcotizzazione delle energie sociali. E allora questi signori arrivano e mettono il dito nella piaga. Un nuovo modo di comporre testi e cantarli, attivando i linguaggi non nel dialetto dei cascami della canzone napoletana, ma attivandolo e ricavandolo direttamente dai quartieri emarginati di Napoli. Divenne popolare nel senso autentico del termine. Scoppiano in Napoli centrale Franco Del Prete, Ernesto Vitolo, James Senese e tanti altri musicisti che negli anni si avvicendano. Tra questi Pino Daniele al basso. Pino è nato con noi, con Napoli centrale. Diciamo che è nato con James, perché noi eravamo come due fratelli in poche parole. Chi te numa? S'accorge tutto che la succede. Era James Senese. In questo clima cresce Pino Daniele, che esordisce nel 1977 con Terra Mia, un classico ed una pietra miliare di questo nuovo corso della musica partenopea. La scelta del titolo Terra Mia, del resto, non è casuale. E delinea subito l'ambito in cui il musicista intende muoversi, recuperando la tradizione popolare attraverso nuove sonorità. Nell'animo ci ho stampato quel giorno in cui mi sono trovato in via Roma, già via Toledo, a Napoli ovviamente, e incontro sto giovanottone dal nome Pinotto, perché all'epoca noi tutti lo chiamavamo Pinotto in quanto la sua stazza, la sua corporatura era piuttosto abbondante. Insomma, Pinotto, che faceva parte del gruppo della Batracomiomachia, nome altisonante che poco c'entrava con un gruppo di giovanotti che facevano rock funky a Napoli, incontro Pino Daniele a via Roma e mi dice: Claudio, io all'epoca facevo il giornalista e mi occupavo appunto dei nuovi fermenti napoletani. Mi fa: senti, io ho fatto dei brani in napoletano ma con uno stile un po' particolare, quindi riprendendo un po' la musica che piaceva a noi, la musica anglo-americana. E mi piacerebbe che lo sentissi. Io sento questa cassetta e sono folgorato, perché faceva parte del mio modo di sentire la musica. Quando venne a casa mia sto ragazzino in pantaloni corti con questa vocetta, sta chitarra, scoprì subito che era un genio. Ne parlai agli altri cinque che producevo, che era diventata una famiglia, e ricordo che qualcuno disse: ma mo ognuno che ha una chitarra e canta in napoletano vuol fare un disco. Allora fui quasi bloccato. Nonostante questo riuscii a telefonare alla EMI, a degli amici, e fissai un appuntamento a Claudio Poggi con Pino Daniele. Prendiamo il nostro treno Napoli-Roma, arriviamo all'Eur, perché all'epoca la EMI stava all'Eur, andiamo da Bruno Tibaldi. Insomma, adesso è inutile che stiamo a favoleggiare, in men che non si dica, iniziamo a lavorare al primo album di Pino Daniele. Pino Daniele, agli inizi degli anni 80, forse sarà stato anche il 79, Pino me lo presentò il suo poi reale produttore di allora, Willie David, che era anche il mio produttore. Willie mi chiese se potevo fare l'ospite di un giovane che lui aveva fatto un piccolo tour in Italia, se io potevo fare l'ospite d'onore, per incrementare poi il pubblico, il manifesto. Così la storia con Pino è nata, io sono stato il suo ospite d'onore nei suoi piccoli concerti in questo mini tour. Da quel piccolo tour, che ci fu peraltro, ebbe un grande successo, Pino e insieme a Willy decisero poi di dire: perché non vogliamo ripetere questo esperimento l'estate? Ingrandiamo il gruppo, ingrandiamo. Io suggerisco Tullio De Piscopo il primo anno, il secondo insieme a Tullio e me viene anche James Senese, e da lì nacque questo gruppo, supergruppo denominato Scirocco, capitanato naturalmente da Pino. Mi ricordo che mi telefonò mio padre, che suonava nell'orchestra di Senza Rete, ma mio padre mi disse: oh, è venuto un uaglione bella, tieni d'occhio questo ragazzo, e come si chiama? Pino Daniele. Poi dopo un po' Pino mi telefonò e voleva che io ascoltassi questo suo nuovo lavoro, che era il primo, era Terra Mia. Ci vediamo venerdì 28 dicembre 1977 alle ore 12 a Portalba. Ci siamo mangiati una grande pizza e poi non ci siamo lasciati più. Pino Daniele è espressione di un profondo ma nuovo legame con la tradizione partenopea e mediterranea, sia per le sonorità che per i testi. L'album Terra Mia contiene brani che negli anni diventano dei grandi classici. Gli anni 70 si chiudono con l'album Pino Daniele. Il cantautore si distacca dalle influenze partenopee ed abbraccia sonorità blues. Il blues è un modo di vivere, no? Sì, piace perché è vero, secondo me. Le cose vere piacciono. La musica è una sensazione, basta pigliarla così, capito? Ma soprattutto è cultura. Amo troppo la musica e quindi do priorità a quello. Poi se attraverso la musica riesco a dire delle cose che possono aiutare, che possono dire il mio pensiero, lo faccio. Devi avere uno stile tuo, però questo stile tuo poi lo devi sperimentare. Grazie. Attraverso i generi, attraverso le cose, perché sperimentare fa parte del gioco e fa parte anche della ricerca. La ricerca per trovare qualcosa di che sia un nuovo modo di fare canzone, un nuovo modo di fare improvvisazione. La mia fortuna è stata avere questo timbro di voce. Poi se tu riesci ad affiancare, quando hai scoperto che cos'hai, ad affiancare il sacrificio, il lavoro, lo studio, le ore, la pratica, allora magari riesci anche a ottenere dei risultati straordinari. L'arrivo del nuovo decennio consacra il musicista come artista di primissimo livello. È il 27 giugno dell'80, Pino apre il concerto milanese di Bob Marley allo Stadio San Siro. Un pubblico di 100.000 persone assiste a quell'evento leggendario. Anche per Pino Daniele quel concerto diventa un momento di crescita. Con l'album Nero a metà, l'artista manifesta con una nuova consapevolezza il suo sound napoletano, un Latin blues tipicamente mediterraneo. E un anno dopo Pino Daniele, accompagnato da quei musicisti che sono ormai la sua famiglia, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, James Senese, Rino Zurzolo e Gioa Amoruso, torna a Napoli. È il 19 settembre dell'81, il giorno di San Gennaro, in piazza del Plebiscito, lo aspettano 200.000 persone, un trionfo. Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Rino Zurzolo. Alla tastiera c'è Gioa Amoruso, usa sofono James Senese e io suono la chitarra e canto in napoletano, quindi se qualche cosa non l'ha capito non fa niente, l'importante è il sentimento. La sensazione di vedere davanti a te 200.000 persone, perché allora erano 200.000 persone, è stata una cosa memorabile. Ci siamo trovati con questa che era scoppiato sul terremoto. Andare in giro, sei napoletano, dopo tutto quello che era successo qui, è stata una forza per le persone che terremotate. Il concerto di Piazza del Plebiscito costituisce un evento di grandissimo rilievo per la carriera di Daniele e di tutti i musicisti coinvolti, è anche il momento in cui si concretizza la divisione del gruppo storico e l'inizio, per tutti, delle carriere da solisti. È una separazione senza rancori. Gli affetti restano, ma lo show business deve andare avanti. Pino Daniele si gode un anno sabbatico, nel quale la sua creatività è alle stelle. La sua raggiunta maturità artistica lo porta verso una nuova ed eccitante strada. Le prime importanti collaborazioni con grandissimi musicisti internazionali. Il 1982 è l'anno di Bella Ambriana, con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, dello storico gruppo Weather Report. Nel 1983 produce Common Ground in collaborazione con Richie Havens. Nello stesso anno Pino Daniele trova il tempo di partecipare con due brani all'album Appassionato di Gato Barbieri. Io sono stato forse uno dei pochi italiani a collaborare con tutti gli italiani che ci sono stati.

quando suoni con artisti che sono meglio di te, cioè che sono più bravi, più famosi tecnicamente, di nome, impari anche una lezione di vita, non è che impari solo delle cose tecniche musicali, ma impari lezioni di vita. Ci sono stati dei personaggi come Cato Barbieri, Don Cherry, Wayne Shorter, Chick Corea, che mi hanno insegnato veramente, mi hanno insegnato delle cose di vita. Frenesia creativa di Pino Daniele non aiuta le sue precarie condizioni di salute, ha un cuore generoso ma malandato, eppure non si risparmia, alla frenetica attività di studio manca però la magia dell'esibizione dal vivo. A Pino Daniele la lontananza dal palcoscenico fa ancora più male dei problemi di salute. Così, dopo 3 anni dall'indimenticabile concerto di Piazza del Plebiscito, è di nuovo davanti al suo pubblico e a giugno dell'84 e allo stadio di San Siro, questa volta con altri 2 grandissimi artisti, Bob Dylan e Carlos Santana. E dimmi qualche cosa, non mi lasciare così, stasera sto sballando, che voglio partire, con due parole in bocca e tanta semplicità, potesse essere allegro. Nel 1984 esce Musicante, nel quale confluiscono sonorità mediterranee, melodie arabe e ritmi brasiliani. Il primo passo in direzione della world music, una strada intrapresa già ad Umbria Jazz nel 1981 con Steve Gadd alla batteria. We're going to play a song written by a very dear friend of ours named Pino Daniele. Nello stesso anno, l'artista partenopeo pubblica il suo primo album dal vivo, intitolato Show Live. Oltre all'abituale band, si esibiscono molti musicisti di fama come Chick Corea e George Benson. È una stagione di nuova creatività, grandi collaborazioni con star italiane e internazionali. La forza della musica vince su quel carattere riservato e quasi scontroso. Nella vita reale Pino era una persona molto dolce, anche molto sofferente perché Pino era un personaggio un po' enigmatico. A volte certi giorni era di una felicità estrema, ti coinvolgeva a fare delle cose, a volte incredibilmente il giorno dopo a stento ti salutava, era assorto in un suo mutismo. Ma questa è stata un po' la magia di Pino. Probabilmente io ti ho sempre detto che Pino era connesso con uno strano mondo magico che lo prendeva talmente tanto, che erano momenti che poi sicuramente questi momenti gli permettevano di fare canzoni così eccelse e così belle. Per l'esterno Pino è sempre stato un po' orzone, diciamo. Pino è sempre stato considerato sempre uno dal carattere difficile, sempre un po' severo con i suoi addetti ai lavori, a volte anche con i musicisti. Era molto riservato, no? Lui voleva suonare, fare la musica, ma non piaceva la gente che urlava, gli isterismi, ecco, queste cose qua. Prima di tutto Pino Daniele è... lui ha su carattere un po' brusco, scorbutico, no? Infatti è uno che se però... Io in questa occasione ho avuto l'opportunità di vedere quanto mi vuole bene. Lui non mi fa mai un pensierino, mai un fiunza, ricordo un anniversario, però stavolta qua, Gait Gianni, in vita massima, a felicità mia, essere voluto bene da Pino Daniele. Erano Tony Esposito, Tullio De Piscopo e per ultimo Massimo Troisi. Daniele e Troisi, fraterni amici, entrambi malati di cuore, si ritrovano nel 92... in una delle rare apparizioni televisive di Pino. Il programma è Alta Classe, condotto da Gianni Minà. Attenzione, attenzione, ma arrivano le domande micidiali. No, come vi siete conosciuti? Ciascuno tu ha si domande. Come vi siete fusi? Ma io ho conosciuto Pino da... come l'hai conosciuto? Pino? La prima volta che l'ho conosciuto, perché tanto ce la fa sta domanda, è meglio che l'ho conosciuto una volta che lui La prima volta che ci siamo visti mi ha detto, mi ricordo ancora, che mi ricordo che, ma il piacere sono Pino Daniele, ti ricordo, no? Piacere, no, ho detto piacere Daniele Giuseppe. Daniele Giuseppe, ha detto piacere Massimo Troisi, perché ci conosciamo. Poi un'altra volta ci siamo rivisti, io avevo sentito un disco suo e lui ha visto il film mio e lui mi ha detto, ho visto il film tuo. No, il film tuo, ho fatto io la musica, il primo film. Sì, però io da Gitta anch'io. Noi ci conosciamo da tanti anni, non abbiamo mai detto una cosa interessante e ti da raccontare. Voi avete lavorato insieme in tre film, ricomincio, cioè, da tre. Ho fatto tutti i film per le musiche di Pino Daniele. Cioè, li hai fatti apposta? Aspetta, no, no. Dice la verità, dai. Lui fa il canzone, mi chiama e dice, ma se lo scopo, fa questa cosa, ma fa il film. Allora io sento nelle parti più a così più malinconiche, ci faccio parte più drammatica, quando la musica ci sveglia ci faccio battute, ecco. E sono anni che andiamo avanti così. Tu mi scrivi una canzone e io faccio un film. Tu sti pensieri manate e tu guarda primero tempo a luce s'annamora. Già si era fatta non so poi a me con Massimo Troisi si era creato un rapporto in simbiosi sul lavoro, il lavoro veniva veramente con grande entusiasmo e con grande semplicità, uscivano fuori delle cose veramente interessanti con niente, perché avevamo la stessa vita da un punto di vista ambientale, da un punto di vista generazionale, da un punto di vista di cultura, avevamo vissuto le stesse cose, vivevamo le stesse cose e poi camminavamo anche insieme da amici, perché io andavo, quando facevo i concerti lui veniva con me e quando lui girava io ero sul set insieme a lui. Alla fine si era creato un rapporto meraviglioso che poi ha dato i suoi frutti, perché sono stati brani che non tramonteranno mai grazie ai film di Massimo. Dal 1985 al 1988 Pino Daniele rallenta il lavoro in studio, pubblica Ferry Boat, Bonne Soirée e Schizzekea with Love. Proprio con il brano di lancio Schizzekea si aggiudica l'anno successivo la targa Tenco come miglior brano in dialetto. Sola che fa Motra se chiesce intanto non mi chiula. I prolifici anni Ottanta si chiudono con la pubblicazione dell'album Mascalzone Latino. Il disco apre a sonorità completamente acustiche, dove i vari fraseggi di chitarra hanno il compito di riscoprire suoni volutamente latini e mediterranei. Non devi pensare al mercato, non devi pensare, devi pensare solo a scrivere delle cose che ti appartengono e basta. Parti dalla ricerca che stai facendo, cioè se ci sono delle cose che ti interessano, tipo musica mediterranea, e ti stai appassionando a realizzare delle cose, perché anche nei tuoi brani, come nel caso mio, anche nei miei brani io tutte le sere sperimento questo modo di suonare, di cantare, di molto legato al Mediterraneo, e poi parto da lì. Quindi cerco di in base ad un ispirazione, in base a questa ispirazione io parto e comincio a scrivere canzoni. Dal 1990 Pino Daniele riduce drasticamente il numero dei suoi concerti per ragioni di salute. Anche la sua vita sentimentale ha una svolta, divorzia da Dorina Giangrande, storica fidanzata, conosciuta prima del grande successo e da cui aveva avuto due figlie. Nel 91 si risposa con Fabiola Sciabarasi, dalla quale ha due figlie e un figlio. Pino Daniele sembra avere ritrovato quell'equilibrio affettivo che aveva perduto. Non è più solo un musicista giramondo con una chitarra e poche cose nella borsa, come nella miglior tradizione dei grandi artisti blues. Sono cantante di blues, mi vesto male. Nel 1993 Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo. Il 22 ed il 23 maggio è sul palco a Cava dei Tirreni in due concerti che vengono registrati e pubblicati nell'album dal vivo Son Amour. Nello stesso anno esce Che Dio ti benedica, ultima collaborazione con l'amico Troisi, che scompare l'anno dopo. I due firmano il brano "Taggia Vera e Morta". Al disco, dove si alternano brani in italiano ed in dialetto, partecipano artisti dal calibro di Chick Corea e Ralph Towner. Il brano Sicily viene premiato come miglior brano durante la rassegna del Festival della Canzone d'Autore. Ed è qui che Pino Daniele riceve la sua seconda targa Tenco. Nel 1994 l'artista introverso sorprende tutti. Organizza una tournée insieme a Eros Ramazzotti e Jovanotti, tre artisti diversi, tre stili e influenze differenti sullo stesso palco. È giugno. Il campionato di calcio è finito, ma gli stadi sono stracolmi di fans. È un successo. Non vuoi scusare? Cerca di stare almeno un'ora senza parlare. Non mi scuccia più, tanto mola pure tu, tanto mola pure tu. La critica lo adora, i suoi fan riempiono gli stadi. Pino Daniele suona con i mostri sacri del jazz, del rock, del blues internazionali. I suoi colleghi italiani non si tirano mai indietro quando li coinvolge in progetti dal vivo o in studio. Eppure Pino Daniele è insoddisfatto, sente che gli manca ancora qualcosa, vuole quel successo di massa che tarda ad arrivare. Ma in soli due anni gli album "Non calpestare i fiori nel deserto" e "Dimmi cosa succede sulla terra" gli regalano numeri da record. Vende 2 milioni di dischi e si aggiudica la terza targa Tenco. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Posso darti tutto quello che ho, però se mi vuoi, prova a chiedermi una carezza. Nella canzone "Se mi vuoi", Pino Daniele duetta insieme ad Irene Grandi ed è solo l'inizio. Un anno più tardi arriva al Pavarotti International e canta "Napolè" assieme al tenore. È la stagione dei grandi duetti. Napoli non sola va, Napoli ancora va, Napoli la carla sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta il giorno. Con il nuovo millennio il musicista torna alle sonorità mediterranee. Esce l'album Medina. Lo affiancano musicisti del suo gruppo storico e nuovi collaboratori di fama internazionale come Alison Miller e Miriam Sullivan. Ma nel 2002 Pino Daniele sorprende ancora una volta. Parte con un'altra tournée in compagnia di artisti italiani. Sono con lui sul palco Ron, Fiorella Mannoia e Francesco De Gregori. Caffè alla mattina, polvere il pomeriggio, si parlerà del tempo, se è brutto tempo lo suonerai. Quante interurbane ti racconti, sai, parlare dei successi e di fischi, non parlarne mai. Alla fine del 2005 Pino Daniele, l'artista che è riuscito a far diventare il linguaggio musicale partenopeo un fenomeno di portata internazionale, si cimenta in una nuova sfida che solo un musicista al di sopra di ogni sospetto può affrontare. Interpreta la canzone napoletana più conosciuta al mondo, talmente famosa che anche Elvis la interpretò in inglese portandola in vetta alle classifiche planetarie. Io sono napoletano, io ho vissuto, sono legato un po' alla commedia eduardiana, sono legato a quel modo di essere napoletani, sono legato alla tradizione un po'. Però lascio sempre una porta aperta per le cose nuove, perché ci sono sempre, gruppi nuovi che sperimentano delle cose belle, tipo Negramaro, Negrita, Subsonica, eccetera. Ci sono gruppi moderni che fanno delle operazioni di un certo tipo e hanno il loro seguito. Però diciamo che la maggior parte, le radio, le cose sono indirizzate più verso una politica di mercato che una politica di contenuti. Quando la musica ha una finalità sociale, quando la musica è diretta e cerca di comunicare emozioni, insomma, di un certo tipo, e soprattutto quando è cantata in napoletano e soprattutto quando tiene presente delle proprie radici. È il 2008, quando Pino Daniele festeggia 30 anni di carriera. In omaggio al suo amico Massimo Troisi, per il quale aveva scritto le musiche del film Ricomincio da 3, pubblica un triplo CD intitolato Ricomincio da 30. 45 nuovi e vecchi brani riarrangiati. Riunisce per l'occasione il gruppo storico con D'Episcopo, Esposito, Senese, Zurzolo e Amoruso e ritorna in quella che oramai è casa sua, Piazza Plebiscito a Napoli. Ed io rimango sveglio, cercando qualcuno che vuole fumare a metà. Pino Daniele non ama gli aerei. Quando ne prende uno deve avere un buon motivo. E l'occasione arriva tra la fine del 2009 e la metà del 2010. L'artista vola prima a New York, dove si esibisce al leggendario Apollo Theater di Harlem, il tempio della musica nera, e poi raggiunge il suo mito di sempre, Eric Clapton, al Festival del Blues Crossroads di Chicago. Ma io quando sono andato a Chicago ho fatto un po' il fan. In realtà ero un po' imbambolato perché sono un amante del blues e quindi quando mi sono ritrovato in mezzo a tutti quei mostri sacri, cioè alla patria del blues che è Chicago, mi sono un po' emozionato, no? E mi ha fatto bene perché ho capito ancora altre cose, ho scoperto persone particolari, ho scoperto che ci sono degli uomini speciali come Clapton, ci sono degli uomini speciali che nascono per fare quello e hanno poi nel mondo un messaggio particolare. E Clapton è una di quelle persone speciali. New York 1987, ho la splendida idea di far arrivare all'Apollo Theater di New York, quando l'Apollo Theater era l'ultima frontiera alla 125esima strada, certo non c'era la ragazza bianca con il cane che faceva jogging all'epoca, e fece arrivare da Napoli Tony Esposito, Tullio D'Episcopo, la nuova compagnia di canto popolari, Fratelli Bennato, insomma James Senese, e organizzai questa rassegna che si chiamava Napoli incontra Harlem e fece suonare i napoletani con chi? Con James Brown, The Temptation, Chaka Khan e moltissimi altri. Grande successo. Pensate com'ero soddisfatto quando anni dopo, nel 2009, arrivò Pino Daniele a New York, all'Apollo Theater, un altro napoletano. Ci fu il concerto molto seguito, insomma, un grande successo. E la sera Pino mi disse: dove andiamo a mangiare questa sera? Dico: guarda, ti porto in pizzeria, in una pizzeria a New York, ma sei pazzo? Lo portai a Bleecker Street. Entrammo e il proprietario Salvatore appena vide Pino Daniele, immaginate un napoletano che si vede arrivare Pino Daniele a New York, che fece? Mise subito un CD di Pino Daniele. Pino lo guarda e dice: Salvatore, scusa, io sono venuto a mangiare qui, mi devi levare la mia musica, mettimi un'altra cosa. E Salvatore gli disse: ma ok, che cosa vuoi sentire? Mettimi a Gigi D'Alessio. Per Pino Daniele, dividere il palco con Eric Clapton è la realizzazione di un grande sogno. Per rincorrerlo ha forse trascurato la sua vita privata, si separa dalla moglie Fabiola e forse inconsciamente sente che il suo tempo sta per finire. Mamma mia, sono 60 anni, però onestamente sono un po' stanco di certe cose, però in realtà ci sono cose oggi per un sessantenne un po' insopportabili, perché forse la mia generazione ha vissuto di valori diversi che oggi non ci sono più. Ma insopportabili soprattutto a parte il disagio emozionale che si vive, la mancanza di valori che magari nei quali tu credevi, che però non ci sono più. Magari la voglia di pensiero, la voglia delle idee, gli uomini con le idee, le persone con voglia di fare. A quasi 60 anni Pino richiama accanto a sé gli amici musicisti che in 3 decenni sono diventati la sua vera famiglia. Con loro riparte per un tour che termina la notte di Capodanno del 2014 a Courmayeur. Signore, signori, Pino Daniele a Courmayeur. In Africa, che importa. È l'ultima occasione per vederlo dal vivo. Pochi giorni dopo il suo immenso e generoso cuore smette di battere. La domenica seguente, prima dell'incontro Napoli-Juventus, lo Stadio San Paolo lo ricorda così. Pino è la musica, è molto una nota. Si è andato un pezzo grosso di Napoli, il nostro Jimi Hendrix.